riduzione dei costi di intervento. Decine di vittime in Siria, dove proseguono i bombardamenti ad Homs. Molte vittime sono bambini. Calcio in una San Siro gelata, questa sera si gioca Milan-Juve. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il governo dunque pone la fiducia alla Camera su decreto legge svuota carceri e si scatena la bagarre. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, il governo pone la questione di fiducia nell'aula della Camera sul decreto svuota carceri, voluto, lo ricordiamo, dal ministro della giustizia Paola Severino per superare l'ostruzionismo della Lega e anche molti emendamenti presentati dalle parti politiche. Dichiarazioni di voto ci saranno a partire da domani dalle 10:15, mentre il voto di fiducia ci sarà alle 12. Il voto sul provvedimento, che alla Camera è disgiunto, ci sarà invece martedì. Ma la Severino assicura, nessun delinquente sarà lasciato libero, però invece la Lega, che dice l'atteggiamento della maggioranza PD, PDL e Terzo Polo è veramente vergognoso. Hanno una maggioranza bulgara ma non hanno neanche il coraggio di discutere in aula i provvedimenti e hanno addirittura paura di ascoltare. E questo è quanto hanno affermato i deputati leghisti Massimiliano Fedigraf e il capogruppo in Commissione Giustizia Nicola Molteni. Proprio sullo svuota carceri la Lega ovviamente contesta il fatto che i pericolosi delinquenti possano essere liberi. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E fra le misure fortemente contestate dalla Lega, lo abbiamo appena sentito, la cosiddetta norma Alfano, che consente di scontare agli arresti domiciliari gli ultimi 18 mesi di pena. Una misura utile ma sicuramente non uno svuota carceri, dice Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. È una misura sicuramente utile, di buon senso, che va nella giusta direzione di decongestione di un sistema iperaffollato. Ricordo che abbiamo 23.000 persone in più rispetto ai posti letto regolamentari e nella vita pratica delle persone in carcere significa non poter stare contemporaneamente in piedi in cella. Non è una misura svuota carceri. Alcune migliaia di persone, se ne stimano 3.500, ma secondo i nostri calcoli saranno meno, molti meno, un paio di migliaia, potranno uscire nel giro di un anno. Quindi nel giro di un anno queste persone potranno uscire prima, persone che sarebbero comunque uscite a breve e comunque persone che avrebbero potuto fruire di altra misura alternativa, per cui diciamo nulla di pericoloso per la sicurezza collettiva, si tenga conto che la percentuale di infrazione degli arresti domiciliari per chi l'ha già usufruita questa misura l'anno passato è sotto l'1%. E torneremo sulla pagina politica nel corso di questo GR24. Prima però le notizie sul maltempo che non molla il nostro paese. Il punto in diretta con Valeria De Rosa. Allora, partiamo dalle previsioni. Nuove nevicate in arrivo nel weekend dovrebbero interessare le regioni del centro-sud, a partire però dall'Emilia-Romagna. Nel frattempo sta nevicando in pianura sul Molise e sulla Puglia, quote basse anche su Campania, Basilicata e Calabria. È tornata la neve anche in Sardegna. In questo momento al nord i problemi maggiori sono dati dal vento, che soffia molto forte in Liguria, in Veneto e in Friuli. E poi il gelo. Questa mattina numerosi problemi a Torino, perché alcune stazioni della metropolitana si sono allagate a causa dello scoppio di alcuni tubi spaccati dal gelo. I comuni lamentano di essere stati abbandonati in questa emergenza e poi è in corso anche un'accesa discussione sui costi che stanno già sopportando e che dovranno comunque sopportare i comuni. Abbiamo raggiunto poco fa al telefono il presidente dell'ANCI, Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, sentiamolo. Noi diciamo che ovviamente l'autorità di protezione civile è il sindaco e quindi il sindaco si assume tutte le responsabilità del caso e quindi deve mettere in atto tutte le precauzioni, quindi non stiamo qui a discutere delle nostre responsabilità, no? Questo ce le prendiamo a pieno. Però è anche vero che bisogna capirsi quando avvengono eventi eccezionali, se sono eventi eccezionali, sono eventi di livello di area vasta, bisogna anche capire come avviene il coordinamento dello Stato e quindi in che condizioni la protezione civile aiuta i sindaci o non li aiuta, perché sul fatto che non basti mandare un allarme per risolvere i problemi a me pare abbastanza scontato. I costi dell'emergenza non dovrebbero essere a carico dei comuni. Ma guardi, esatto, qui c'è un altro problema. Se si tratta di appunto di situazioni di emergenza nazionale o di intere regioni colpite, io credo che sia veramente difficile pensare che i comuni possano far fronte. Se un comune montano che deve sgomberare tutte le sue strade, ripristinare la viabilità e ripristinare le scuole, potare gli alberi e così via, vuol dire che dovrebbe avere a disposizione un bilancio di 3-4 volte superiore a quello che ha attualmente. Secondo punto, anche le città più attrezzate, come i capoluoghi di provincia. Allora, queste spese è possibile che vengano escluse dal patto di stabilità, per esempio? Se si fa riferimento alla questione esercito e spalatori, invece non lo so, francamente, perché lì c'è un balletto di responsabilità in cui l'esercito dice che non è vero che chiedono i soldi per spalare la neve, mentre noi riceviamo segnalazioni che invece preventivi ci saranno e ci sono stati anche ai comuni e non solo tra le amministrazioni centrali. Un aggiornamento anche per quel che riguarda la linea ferroviaria. Alle ore 12 di oggi tutte le principali linee della rete FS sono operative, questo è quanto rende noto Ferrovie dello Stato, anche se c'è ancora qualche problema per quel che riguarda le linee regionali. Ed è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. E nuovi aumenti dei carburanti, con la verde che sfonda il record di 1,8 euro al litro. Il gasolio invece arriva a sfiorare 1,74 euro. Il nuovo record raggiunto dai carburanti in Italia determina una stangata pari a 204 euro ad automobilista su base annua, ha calcolato il Codacons, secondo cui si tratta dell'ennesima speculazione da maltempo a danno degli automobilisti, e chiede al governo di inviare la Guardia di Finanza presso i distributori di benzina in tutta Italia. Le borse sono ottimiste questa mattina. Il premier greco Lucas Papademos incontrerà i leader dei partiti che formano la coalizione di governo alle 14 ora italiana. Dunque siamo forse alle battute finali. Qui con me Vittorio D'Arold. Vittorio, ci credi? Sì, dovrebbe essere veramente le battute finali, perché l'austerity che dovranno appunto accettare e firmare i tre partiti prevede il taglio del salario minimo, quindi la famosa recupero della competitività, tagli ancora le pensioni e poi appunto sarà il via libera perché arrivi il cosiddetto aiuto da 130 miliardi da parte di Bruxelles. Attenzione però, perché questo non basterà, ci sono anche un altro vagone di questo treno complicato che deve essere messo in moto, ed è il cosiddetto PSI, cioè la partecipazione allo swap, al cambio dei bond di tutte le banche più grandi, le più grandi banche e assicurazioni del mondo. Questo è un altro fatto importante a cui sembra, questa è la notizia appunto di ieri, che anche la Banca Centrale Europea, quindi Super Mario, anche in questo caso sta dando probabilmente il suo contributo decisivo, perché parteciperebbe anche lui in qualche modo alle perdite, ridurrebbe il debito. Come vedete è una cosa complicata, che vede però intanto i greci molto arrabbiati con proprio il PASOK, il Partito Socialista, e addirittura premiano il Partito Conservatore, che è stato quello che ha truccato i conti, che oggi viaggia al 31%, il povero PASOK viaggia al 9%. Grazie Vittorio D'Arold. Non sta proprio tanto meglio anche l'Ungheria, dove la crisi economica si aggrava. Orban replica intanto alle accuse dell'Europa. In diretta qui con noi Gigi Donelli. Sì, anche in Ungheria diciamo c'è una situazione per certi versi simile alla Grecia senza l'euro. Infatti gli ungheresi ormai si sono abituati a guardare i tassi di cambio del fiorino, che nella crisi di gennaio era arrivato a 320 fiorini per un euro, oggi a 295, in netta risalita. Altri numeri li preoccupano, uno dei quali, l'ultimo di una lunga serie, arriva da Nokia, che annuncia il taglio di 4.000 posti di lavoro in tre impianti, ma la parte del leone, o anzi del Puma, come chiamavano l'Ungheria 10 anni fa, la subisce appunto l'Ungheria. Tutto questo mentre si moltiplicano le manifestazioni di disoccupati, di persone che appunto faticano ad arrivare alla fine del mese. I dati della produzione industriale sono in crollo, meno 7,4% a dicembre. Orban, come dicevi ieri, lungo discorso alla nazione per difendere le sue scelte, la legge fondamentale, per respingere le accuse dell'Unione Europea, che a fianco dei temi economici sottolinea invece i pericoli di una deriva sul fronte delle libertà di stampa e informazione. Una vicenda anche questa che non si chiude certo oggi. Grazie a Gigi Donelli, e completiamo il quadro europeo con una nota di ottimismo. Export record in Germania, sentiamo. e boom di esportazioni in Germania nel 2011 superano per la prima volta il valore di 1.000 miliardi di euro con una crescita dell'11,4%. Anche le esportazioni segnano una crescita considerevole con un più 13,2% rispetto al 2010. La bilancia commerciale è chiusa con un surplus di 158 miliardi contro i 154 del 2010. Perso il primato mondiale come campione dell'export conquistato dalla Cina, la Germania ha comunque un saldo commerciale di gran lunga migliore rispetto a quello di Pechino. La performance e soprattutto il record dell'export sono rapidamente finiti in primo piano oggi sulle testate tedesche con titoli di apertura di tutte le edizioni online. Tuttavia potrebbe essere difficile replicare questi valori nel 2012 con molti dei partner dell'area euro, primo mercato di sbocco della Germania, che accusano pesanti indebolimenti dell'economia se non dinamiche recessive. Del resto, già nel mese di dicembre se ne sono viste le ricadute con un calo delle esportazioni del 4,3% rispetto al mese precedente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Doppio vertice in giornata in vista della riforma del mercato del lavoro. Nel pomeriggio si incontreranno i tre segretari generali di CGIL, CISL e UIL, poi alle 19 Camusso, Bonanni ed Angeletti si sposteranno nella foresteria di Confindustria per l'incontro con il presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Nuovo faccia a faccia fra governo e parti sociali, difficilmente si terrà come previsto domani, potrebbe infatti slittare alla prossima settimana. Sul tavolo restano i temi della riforma, flessibilità in entrata e in uscita con l'articolo 18, riduzione del numero dei contratti e riforma degli ammortizzatori sociali. Intanto, in un'intervista sul Wall Street Journal alla vigilia del viaggio in USA, Mario Monti dice: sulla riforma del mercato del lavoro siamo vicini alla conclusione che attendiamo non più tardi della fine di marzo. Vogliamo permettere più impiego, spiega ancora il Premier, e la rimozione delle barriere che di fatto impediscono l'entrata al mercato del lavoro. E notizia di poco fa, crollano a gennaio le ore autorizzate di cassa integrazione nel mese, sono i dati diffusi dall'INPS, sono stati autorizzati 55 milioni di ore di cassa con un calo del 26,7% rispetto a dicembre e dell'8,5% rispetto a gennaio 2011, è il dato più basso dall'agosto 2009. Appello di Federculture e FAIL, Fondo Ambiente Italiano, perché la politica riconsegna la cultura a una nuova centralità nelle strategie per lo sviluppo del paese, investendo in beni e servizi culturali e nella difesa del paesaggio. La presidente FAIL, Aria Borletti Buitoni, al microfono di Adriana Fracchia. Il nostro appello è che questo governo ha avuto il coraggio di mettere mano a delle riforme alle quali non si era pensato negli ultimi 30 anni. Tra queste ci deve essere anche la riforma della cultura, quindi la riforma di tutto quel settore di cultura appunto immateriale, ma che riguarda soprattutto il mantenimento dei beni culturali che sono la nostra principale ricchezza, in funzione di uno sviluppo. E sviluppo vuol dire turismo, vuol dire entrate, vuol dire un giro diciamo economico che rappresenterebbe una risorsa importante. Noi chiediamo al governo di affrontare questo ambito che non è secondario in Italia, con metodi efficaci e soprattutto riconoscendone la priorità, perché il problema vero è che non si riconosce la priorità a questo ambito. Le regioni che hanno perso la loro vocazione produttiva, che alternativa hanno se non sviluppare la loro vocazione turistica? E come possiamo pensare che la sviluppino se si lascia affondare il patrimonio culturale? Il governo pone la fiducia sul decreto svuota carceri, le proteste, le urla della Lega alla Camera. Il ministro Severino assicura: nessun delinquente pericoloso sarà libero. Freddo e neve ancora, che non mollano l'Italia. Il peggio deve ancora arrivare, dicono i meteorologi. Rincari record della benzina, i consumatori denunciano le speculazioni. Ancora non risolta, protestano i sindaci, la questione dei costi di intervento. Questo, di tutto ciò abbiamo parlato nella prima parte di GR24, ripartiamo ora invece dagli esteri, in particolare dalla situazione in Siria. L'Unione Europea ha deciso di inviare 3 team di emergenza nella zona per coordinare l'azione dell'Unione Europea sul terreno in vista delle future operazioni, inclusa l'evacuazione delle migliaia di cittadini europei dal paese. Intanto i bombardamenti sono andati avanti tutta la notte con decine di morti ad Homs e l'UNICEF denuncia almeno 400 vittime fra tra i bambini negli ultimi 11 mesi di violenze in Siria e centinaia di bimbi in carcere. Al microfono di Katia Caramelli, Paola Bianchi, presidente UNICEF Italia. Un numero assolutamente elevato e assolutamente per noi dell'UNICEF inaccettabile. Noi riteniamo che i bambini meritino di essere tutelati nel loro diritto alla vita, ma soprattutto difesi. Invece in Siria in questo momento registriamo una inconcepibile recrudescenza della violenza contro i bambini. Il nostro appello è che a questi bambini possa essere garantito al massimo la tutela e l'accesso alle cure. Sono tra le vittime indifese e quindi subiscono le violenze. Accade in strada, accade anche attraverso un attacco all'ospedale pediatrico, per esempio, ma accade anche nelle carceri. Da notizie provenienti dal territorio ci risulta che siano oltre 400 i bambini che sono stati arrestati arbitrariamente e che poi in carcere diventano oggetto di violenze sessuali, di abusi, di maltrattamenti, in taluni casi fino ad arrivare alla morte. Lanciamo veramente un grido, un appello urlato affinché intorno a questa questione si possa fare chiarezza e soprattutto aggregare l'opinione universale. Tutti e 67 gli A380 Super Jumbo che circolano nei cieli del mondo sono da ispezionare a causa delle microfessure o crepe che si sono evidenziate nelle ali di alcuni esemplari. Lo dice l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che intende quindi raccomandare di effettuare queste ispezioni generalizzate, secondo quanto riferito da un portavoce dell'ente. Un terremoto politico inaspettato negli Stati Uniti nella notte all'interno del Partito Repubblicano, che a sorpresa vede riaprirsi la lotta per la nomination per la sfida ad Obama. Conservatism is alive and well in Missouri and Minnesota. Rick Santorum, lo sentite, l'ex parlamentare della Pennsylvania, si è aggiudicato il Missouri, il Minnesota e al photo finish anche il Colorado, battendo l'ormai favorito Mitt Romney. I giochi dunque a questo punto si riaprono e di questo torneremo a parlare in America 24 in onda alle 13:45. Torniamo invece alle cose di casa nostra. Un'azienda che commercia abbigliamento nota in tutta Italia non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi. Un'evasione da oltre 6 milioni di euro di ricavi non dichiarati. Il colonnello Antonio Morelli della Guardia di Finanza di Gallarate. È stata fatta una verifica, un controllo fiscale a una ditta che commercializza capi di abbigliamento griffati, e la cosa che ha lasciato abbastanza sorpresi anche i militari, il fatto che questa ditta, che comunque è una ditta inattiva e quindi opera normalmente, quindi anche con un buon affari, non ha presentato praticamente l'ultima dichiarazione dei redditi. Quindi l'imponibile, sottratto in questo caso, avendo messo dichiarazioni, ammonta a circa 6 milioni di euro. Quindi un'attività importante che chiaramente si va a innestare in quello che è un po' la particolare attenzione che ovviamente la Guardia di Finanza in questo momento, come ha sempre avuto, ma in questo momento in particolare, nei confronti di questi fenomeni particolari, quali in questo caso un soggetto comunque in qualche modo attivo, comunque in qualche modo con un giro d'affari importante, che non presenta dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando di una grossa catena di distribuzione di capi di abbigliamento griffati, e non è la ditta proprietaria del marchio, la ditta che commercializza questo marchio. Ed ora è il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Un milione di euro all'anno in nero è quanto si calcola abbia incassato una clinica privata della Lombardia con l'evasione fiscale. Sapete come? Grazie ai ticket, centinaia ogni giorno, degli esami del sangue pagati in contanti. Ce l'ha raccontato Pietro, un medico che ha lavorato per questa clinica convenzionata e che, scoperta questa truffa, se n'è andato. Il primo anno in cui io ero dentro in questa cosa, c'è stato il consiglio di amministrazione e mi hanno detto: va bene, questi sono i 100.000 euro per te. E io ho detto: ma scusate, 100.000 euro per cosa? Per che cosa sono questi soldi? E loro hanno glissato. Praticamente lì c'è già una doppia cassa, no? Nel momento in cui arriva il paziente con la sua impegnativa, se il paziente paga in contanti, automaticamente va nella cassa del nero. E si tiene la fattura che è stata comunque messa, no? Però è una fattura che alla sera si butta via. In quella struttura avevo stimato che faceva circa 1 milione di euro all'anno, in più in nero praticamente, che poi venivano divisi tra i soci. Gli altri non sanno niente, cioè gli infermieri, i medici, tutta la catena non sa niente di questa cosa. Il personale che deve gestire questa cosa può essere una persona sola, diciamo, erano delle persone che erano più facilmente ricattabili, persone che avevano fatto errori. Se tu parli poi perdi il posto. Se la finanza volesse, cosa potrebbe fare? Potrebbe mandare delle persone a fare degli esami, a farsi fare la ricevuta e il giorno dopo ritornare e dire: signore, fatemi vedere la vostra, la matrice, e la matrice non c'è più. E la Regione Lombardia? Tutto sommato un meccanismo di comodo anche per Regione Lombardia, che riduce i suoi rimborsi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora in Piemonte, che incentiva il congedo parentale per i papà. Un aiuto per sostenere i congedi parentali dei papà. Il Piemonte fa da apripista e sperimenta l'assegno da 400 euro destinato ai lavoratori maschi che scelgono di usufruire di un periodo lontano dal lavoro per prendersi cura di bambini piccoli. Uno strumento poco utilizzato in realtà in Italia. Solo il 10% di chi ne fa richiesta nel settore privato è un padre. Colpa di retaggi culturali, ma anche e soprattutto di una retribuzione garantita ancora troppo bassa, al 30% dello stipendio. Da qui l'iniziativa del Piemonte con lo slogan Missione Possibile. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Caro Monti, sottoscriva l'impegno del governo per Roma 2020, firmato Totti, Valentino Rossi e Checchi, ma anche idem Vezzali, Pellegrini e Buffon. Un appello al Premier per la candidatura olimpica è stato lanciato da 60 atleti di altissimo livello ed è stato pubblicato oggi come pagina pubblicitaria su 8 quotidiani. A Dario Ricci ha intervistato Josefa Idem, leggenda della canoa azzurra, fra i campioni firmatari appunto dell'appello. Naturalmente le Olimpiadi costano, però molto probabilmente è anche possibile organizzarle in modo diverso rispetto alla pompa magna che tanti paesi, quando devono organizzare i giochi, mettono in atto. Attorno a Roma ci sono tantissimi impianti sportivi già esistenti che magari hanno già le carte in regola, quindi c'è troppo facile dire a priori che costerà troppo quando nel dettaglio non si sa. A nostro avviso la cosa da fare è mettersi lì con le carte in regola per potersi candidare e poi guardare come al meglio si può risolvere la questione, perché purtroppo gli investimenti costano, però dopo, una volta che si è fatto l'investimento, tante volte c'è un ritorno che supera di gran lunga quello che si è investito, quindi occorrerebbe distanziarsi dal voler escludere a priori questa candidatura, ecco. Torna oggi in campo il calcio, nonostante il freddo, riparte Catania-Roma, 25 minuti per concludere la partita sospesa per pioggia il 14 gennaio, stasera alle 20.45 Milan-Juve. Tra il persistere del gelido vento siberiano, il Burian e l'arrivo del Blizzard, la tormenta di neve gelata dei paesi baltici prevista già per domani, anche per le partite della 23esima di campionato sembra prospettarsi qualche difficoltà. Ed è il caso che la Lega Calcio si interroghi già oggi su cosa fare. Per esempio con Lazio-Cesena, che si dovrebbe giocare giusto appunto domani alle 20.45 all'Olimpico, o Bologna-Juventus, posticipo serale di domenica, o ancora, guardando più avanti, anche a Siena-Roma di lunedì. Nella città toscana si prevede una temperatura di meno 8 gradi. Stasera, dal lato freddo, c'è già un bel test. In campo a San Siro scendono Milan e Juventus per la semifinale di andata di Coppa Italia. Potenzialmente splendida partita, sfida dalle mille suggestioni, anche in chiave scudetto, ma la cui qualità rischia di essere deteriorata dai meno 2 gradi previsti con un 60% di umidità. E forse i vertici del calcio dovranno anche prendere in considerazione, ma ormai si parla del prossimo anno, la proposta dell'associazione calciatori, che paventa il rischio con questo freddo di un alto numero di infortuni. Va ridotto, ha detto il presidente Damiano Tommasi, il numero delle gare in inverno. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.